cose belle, spira tanto sentimento. Giardino, siente siesti sciurarance, no profuma così fino, dinto cuore se ne va, e tu dice i parta Dio, toglio le tane da stupore, da state. Cuore non tornare.